e sa davanti una foglia in albero. Se il vento mi portasse, dove stai tu? Verrebbe quale in mano da accarezzare. Per me fa male nato un pochicchio. Per me rimane sempre prima e l'ultima. E nato non mi saccia innamorare. O cora stivo sole non vuoi spendere, quando non può cagnare la verità. No, non ci può dire che una volta tu pure morivi soltanto per me, che ogni tanto i pensieri più dolci si infondono nelle lacrime. Quando suona la rotta di porta fa amore con me. No, non ci può dire, ma si trova coraggio in un giorno, fancello sape, che una volta tu pure giurato facendomi credere che per sempre st'amore era l'unica cosa per te. Scavecchio mi trovo rinda all'anima, ad uso stato l'urdo ma trasì, e poi mi ha pigliato troppo collera quando sono stato prima se nascì. Per me rimane sempre prima e l'urdo. E nada non mi saccia innamorare. O cora stivo sole non può spendere, quando non può cagnare la verità. No, non ci può dire che una volta tu pure morivi soltanto per me. Ogni tanto i pensieri più dolci si infondono nelle lacrime. Quando suona la notte di porta fa amore con me. No, non ci può dire, ma si trova coraggio in un giorno, cancello sape, che una volta tu pure giurato facendomi credere che per sempre st'amore era l'unica cosa per te. Non ne avere che soffrono cuore per due che si passano. Si mi trovi da tutte sti vasi che chi le terrà.